sempre a quest'ora è l'appuntamento con il nostro gastronauta, ma ci avrà trovato delle chicche proprio qui in zona sanremese? Glielo chiediamo subito. Ciao Davide, Davide Paolini. Ciao, ciao. Sicuramente rimaniamo perché ci sono molte chicche di cui ti parlerò e anche qualche locale da andare a visitare. Allora, c'è una star ovviamente a Sanremo, è il gambero rosso di Sanremo. È un gioiello della pesca ligure, è un crostaceo pescato esclusivamente nelle acque della Città dei Fiori, tra l'altro, ed è di un colore rosso acceso, ha una polpa molto saporita e si può mangiare sia crudo, che è molto buono, lo garantisco, e anche cotto. Che meraviglia! Ma non è la sola specialità. Poi ti dirò i posti dove andarli a mangiare, ma ti dirò che anche c'è la Sardenaira. Sai cos'è la Sardenaira? Quanto mi piace, questa mi piace tanto tanto, quella che chi non è di Sanremo, arriva a Sanremo, crede di ordinare la pizza. E invece no, si può chiamare anche pizza di Andrea, perché è in riferimento all'ammiraglio Andrea Doria. Ah, ecco. E sai cos'è? Io la conosco bene. Allora, è una specie di focaccia, e quindi se la sai la diciamo ai nostri radioascoltatori, poi magari tu la mangerai. Ne ho mangiata tanta in questi giorni. Ecco, e quando sarai di nuovo a Milano ce lo racconterai. È una specie di focaccia condita con un sugo di pomodoro, aglio, capperi e olive taggiasche, origano e sarde fresche, che appunto danno il nome alla pietanza, Sardenaira. E poi ancora la buridda, hai mai mangiato la buridda? Questa l'ho provata, anche se non la mangio così spesso come la Sardenaira, che invece per i giornalisti che seguono Sanremo è un pasto molto rapido e quindi ci soddisfa in fretta e ci rende felici sempre molto rapidamente. Beh, ecco, e poi ci sono i ravioli di borragine anche, che sono molto molto interessanti. Però voglio tornare al nostro gambero rosso di Sanremo, perché ti racconto una bella storia. Cioè, il gambero rosso di Sanremo viene pescato solamente in due o tre luoghi, uno si chiama Ossobuchi e un altro Cimitero, e si pesca solo 7 mesi all'anno, però è in atto una guerra con la Francia, perché uno di questi luoghi dove si pesca è quasi al confine con le acque francesi . E quindi c'è stato un problema di una guerra un po' di tempo fa, una guerra molto pesante tra la marineria francese e quella italiana, con il sequestro anche di una barca che ha creato non pochi problemi in città. Comunque il nostro gambero rosso rimane anche per questa storia ancor più gradito. Quindi, tra l'altro, questi posti dove si pesca, Fossa del Cimitero, Ossobuchi, insomma, non sono molto auguranti, però sì, è vero. Il pesce è molto buono. Bene, allora io ora facciamo un giro. Davide, però ci hai citato la buridda e non ci hai spiegato. È una sorta di zuppa di pesce. La buridda è una zuppa di pesce con totani, polipi e calamari. Ecco, ognuno ecco. Poi la fa alla propria maniera, però ora poi alla fine mi lascio per due piatti che sono i piatti straordinari, però facciamo un giro. Allora io consiglio per l'aperitivo di andare a Pasta Madre è un locale di una famiglia storica, addirittura pare che ci sia dal 1890, dove si può anche asportare il cibo, ma si può anche mangiare fuori in un dehors, e appunto qui si può andare ad assaggiare la Sardenaira, si può mangiare la focaccia all'olio, la farinata, le torte verdi e la pasqualina. Questo diciamo è la fase dell'aperitivo. Se invece vogliamo andare a mangiare in una trattoria di quelle veramente trattorie vere, allora l'indirizzo è Tortuga. Qui c'è un rapporto qualità-prezzo veramente intrigante. E allora cosa si mangia? Si mangiano delle materie prime freschissime, piatti della tradizione e il pesce, ma soprattutto si mangiano due piatti che sono la specialità della cucina sanremese. Sentiamo un po'. Uno è il barbagiuai, che cos'è? È un grande raviolo con riso, zucca e fagioli, dove dentro il dolce della zucca contrasta con il piccante del formaggio brusso. Il formaggio brusso è un recupero di tutto quello che rimane degli altri formaggi, quindi te lo consiglio, assaggialo, perché è molto interessante. Qui poi si possono mangiare anche ravioli di magro, alle erbette selvatiche, con olio, pinoli, oppure anche ravioli di pesce, ma soprattutto qui si può mangiare una cosa che è abbastanza diffusa in Liguria, ma io mangio sempre, il brand acuio. Lo sapevo che ci avresti detto questo nome che mi fa sempre ridere, però è un piatto serissimo. Sai cosa significa brand acuio? Non l'ho mangiato, mi piace, ma non so cosa significhi. Allora, io te lo dico in ligure, però poi te lo traduco, perché no, sicuramente il mio accento non sarà giusto. Vuol dire branda cuyun, branda, che ci tu brandi, ci tu bon, le bon. Allora vuol dire scuotilo, coglione, scuotilo, che più lo scuoti più diventa buono. Ovviamente il baccalà o lo stoccafisso, perché qui c'è anche una grande diatriba, chi usa il baccalà e chi invece usa lo stoccafisso. E come nasce questa storia del branda? Branda nasce perché veniva nelle navi e chi doveva scuoterlo era il mozzo di bordo, e quindi gli dicevano branda coglione, perché più lo scuoti più diventa buono, esortato il mozzo dal cuoco, ovviamente, che era pronto poi per cucinare il tutto, perché poi, come tu sai, il branda coglione è fatto appunto con baccalà, patate, pinoli, prezzemolo, e quindi è un piatto molto semplice, praticamente un piatto mantecato, però rimane secondo me uno dei piatti più interessanti che ci siano nella cucina ligure, e in questo posto la tortuga vale la pena di assaggiarlo. E ho lasciato come ultima tappa, ovviamente, ho lasciato, perché abbiamo dato un farinotto, una trattoria, e poi c'è un ristorante di grande livello a Sanremo, che è Paolo e Barbara, che è stellato da tantissimi anni, quindi diciamo che è la stella della Liguria. In Liguria non ci sono moltissimi ristoranti stellati, questo credo che siano, anzi lo è, l'unico due stelle appunto della Liguria. E qui cosa consiglio di mangiare? Il caponmagro, che è difficile da trovare perché è un piatto complesso, fatto da tanti pesci e da tante verdure, un piatto davvero straordinario secondo me. E poi c'è il pesce crudo, quindi diciamo che in questo ristorante si serve pesce di grandissima qualità, anche perché, visto la rinomanza, non può usare pesce di seconda qualità. E poi si può mangiare anche un piatto che io consiglio, che sono i cappelletti ai gamberi e zenzero in ristretto di brodo di verdure. C'è una grande carta dei dolci, una grande carta dei vini, e quindi appunto, però qui bisogna andare chi vuole spendere, quindi chi vuole spendere trova, diciamo, grande accoglienza, grande posto, a differenza degli altri due che sono, diciamo, per tutte le tasche. Ti confesso, Davide, che ho peccato. Sei andata? Sì, ho peccato, ci sono andata, ma d'altronde lo sai, per me scoprire un grande ristorante è come leggere un bel libro, cioè bisogna concederselo ogni tanto. Però stavolta vai al Tortuga e poi mi racconti. Sì, così completo l'esperienza. Tra l'altro in Liguria si beve anche bene, e quindi chi è appassionato, insomma, non ha problemi anche di abbinamento. No, assolutamente, perché sai, è una terra di vini bianchi, di molti vini bianchi come il Pigato, oppure ci sono anche alcuni territori completamente nuovi, ad esempio a Rio Maggiore ci sono un paio di, sempre ovviamente in Liguria, Cinque Terre, siamo sempre lì, ci sono dei produttori di vini naturali molto interessanti, ti do un nome, si chiama Azienda Prima Terra, lo consiglio sia sul bianco che sul rosso, oppure io sono un grande appassionato del rossese di Dolce Acqua, che secondo me è servito a una temperatura fresca, 14-15 gradi, secondo me è l'ideale anche per mangiare con il pesce. E il mio, diciamo, il mio indirizzo che do, il produttore che do, è Testa Longa, che fa veramente un grande rossese di Dolce Acqua. Quindi io credo che sia una regione dove si possono mangiare dei piatti molto interessanti, e soprattutto ovviamente il pesce del, diciamo, ligure è interessante, ma addirittura ci sono anche nel Golfo di La Spezia, in certi periodi dell'anno addirittura si trovano le ostriche, quindi diciamo è un mare abbastanza completo. Un altro pesce che io amo molto e che si trova in Liguria è il morrone, e quindi un altro pesce secondo me che, se lo trovate nei ristoranti, mangiatelo, perché è poco conosciuto ma è un pesce da mangiare, così come le acciughe ovviamente non mancano, perché il passaggio avviene proprio in Liguria delle acciughe, è uno dei luoghi sacri dell'acciuga, quindi le acciughe piacciono un po' a tutti, credo, o no? Mi piacciono le acciughe, mi piace il fatto che con te si passi indistintamente dalle ostriche alle acciughe, perché le cose buone da mangiare si trovano dappertutto. Io dico sempre che sono da Bosco alla Riviera. Va bene, straordinario. Grazie al nostro gastronauta per averci portato anche a sperimentare qualche ottimo indirizzo in quel di Sanremo, insomma, in Liguria. Grazie alla prossima settimana, quando saremo ancora e come sempre a Milano. Ciao Davide. Ciao, ciao.